come un ufficiale che aveva commesso stragi in Italia. C'è una blanda richiesta del Ministero degli Esteri tedesco alle autorità italiane, questa richiesta arriva al Ministero della Difesa italiano, che la passa alla Procura Generale Militare, che pesca il fascicolo dall'archivio, siamo nel marzo 63, il fascicolo viene tenuto in osservazione per 2 mesi dal Ministero della Difesa, viene addirittura scritta una relazione completa su quello che c'è dentro, e ripeto, era un fascicolo istruito completamente, in cui i responsabili potevano essere inviati a giudizio il giorno dopo, poi il fascicolo torna nell'armadio e vengono date informazioni ai tedeschi, che evidentemente attendono informazioni puramente formali, blande, sul fatto che non c'è niente su cui provvedere. In pratica avviene per quella strage lo stesso accordo a non fare nulla che è quello che è emerso oggi per le forze addette. Cosa c'è secondo lei ancora da scoprire in quell'armadio della vergogna, in quell'armadio lontano? Io credo che ci siano ancora delle cose da scoprire, perché alcuni dei protagonisti politici di quell'epoca sono ancora vivi. Ad esempio l'onorevole Giulio Andreotti era ministro della difesa e ha avuto vari incarichi in quegli anni, gli anni in cui si decise di non procedere. E è interessante anche il fatto che probabilmente non si procedette contro numerosi criminali tedeschi, perché nel dopoguerra erano stati reclutati nei servizi segreti americani in funzione anticomunista nell'ambito della guerra fredda. Quindi il nemico di ieri diventava l'amico di oggi. Il nemico di ieri diventava l'amico di oggi. Sulle fosse ardeatine posso aggiungere, mi sembra importante ricordarlo, che uno dei responsabili, a fianco di Priebke, cioè il maggiore Karl Haas, che fu processato solo negli anni 90, quando emersero i nuovi fatti, era stato reclutato dalla CIA negli anni 50 in Germania, con il compito di fornire informazioni sui movimenti comunisti utilizzando l'esperienza che egli aveva maturato durante la guerra. Karl Haas è stato condannato all'ergastolo come Priebke ed era un agente americano nel dopoguerra. È probabile che molti di costoro, e anche Saivè, che lavorò per la CIA, il responsabile di Piazzale Loreto, non furono giudicati perché intanto avevano assunto incarichi importanti per conto del loro nuovo padrone. Anche gli atti che vengono man mano desecretati in America, grazie al National Security Act, che permette di leggere documenti di quell'epoca, ci confermano di questo ampio reclutamento in senso anticomunista che salvò molti terminali nazisti. E anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate di Italia in Controluce su www.radio24.it, ci trovate anche su Facebook e Twitter. Torniamo domani alle 6.30.